快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台，北京音乐广播古典音乐有限频道。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏歌剧艺术家的生涯：茶花女、拉美摩尔的露琪亚、弄臣、唐乔万尼、蝴蝶夫人、托斯卡、曼农列斯科中的著名爱情二重唱，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、萨瑟兰、维克尔、波普、卡纳瓦、卡雷拉斯等演唱。 Oh. Oh, avvicina, ma dunque ariamoci, donna celeste, dimmi gli animali, sono per te, dimmi gli uomini. Mami, mami, ma si è distrutto il corso amicizia del cielo, è scritto tutto. Here. Thank you. carina. Meri sottrarti, danneri sei vezzi, del re al voler, e tu popoli cuchi, e si terruti a noi. Odi, mia Ida, nel fiero merito di la guerra, il suo letio pessi di destò, i tuoi già invadono la nostra terra, io degli egizi duce sarò, fra il suon, fra il plauso della vittoria, al re di Crostro gli svela il cuore, sarò. Yes. Thank you. spenta Repubblica Romana. Oggi por ora la Castel San Francesco. Rispondete di me. Gelatevi. È una donna gelosa. Un breve istante arrivando. Eccomi. Sono stereo di forze più non reggo. Presto! Grazie. Presto! Mario! Mario! Mario! Sono qui! Thank you. Oh, curva, lasciami. Tu fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, se a caso fortuna si attreccia bionda bruna, a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore, ancora perdona davanti la Madonna e tutto 声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中请欣赏歌剧中的著名选曲，曲目有女人善变、爱情天使、我亲爱的爸爸、今夜无人入睡、晴朗的一天、冰凉的小手、多么美丽的姑娘，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯、萨瑟兰、派巴尔迪、霍华德等演唱。 Yeah. bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, conde donde cosa è tu fai le mie pene, le mie pene. E senti del mio cuore il frequente palpito. Bella figlia dell'amore. Oh! Sogni e meraviglie, e bene castelli Thank you. Sempre d'intorno, chi in giro sta, mi ne cuccagno per un barbiere di tappi un novenno non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rosari petti, lancetti forti al mio comando, qui sta. Rosari petti, lancetti forti al mio comando, qui sta. Ve la risorsa. Forti al mio comando, qui sta. Rosari petti, lancetti forti al mio comando, qui sta. Ve la risorsa. Voi del mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, che dove ragazzi, vecchi fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, o la sanguigna, questi biglietto, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la fanciulle, questa la barba, questo biglietto. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Oimè, che furia, oimè, che folla, uno alla volta, quella di noi, quella di noi, quella uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Sono pochissime, sono le forme, sono attacco, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Sono il secondo della città.